vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 14 aprile, il sole in regione è sorto alle 6.24 e tramonterà alle 19.54. Venerdì ci sarà luna piena e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino e Rita Miccoli. I dati dell'export di vino in Friuli Venezia Giulia sono di prima grandezza e si moltiplicano e affinano le attenzioni in questo settore. Al Vinitaly di Verona era uno dei temi all'ordine del giorno, dove gli operatori del settore hanno però messo in guardia dalle lusinghe che stanno arrivando dal mercato cinese, raccomandando la diversificazione delle nuove destinazioni e la cura di quelle già raggiunte. E questo è il tema del servizio di apertura, per passare poi al mondo dei sovesci, alle loro molteplici finalizzazioni che, a quanto pare, stanno incontrando sempre più i favori degli agricoltori friulani. Dopo i finocchi nell'orto è la volta delle zucchine, mentre nella rubrica che si occupa di erbe e piante nostrane spazio al versatile lupolo. Per la rubrica della sicurezza alimentare si affronta il tema della esatta compilazione delle etichette dei prodotti alimentari, mentre in quella gastronomica una ricercatissima e dotta scheda su un dolce della Venezia Giulia, il S'more. Andamenti dei mercati agricoli, previsioni del tempo con una nota di climatologia locale e il proverbio della settimana chiudono la puntata. Nel 2003 l'export del vino del Friuli Venezia Giulia valeva poco più di 65 milioni di euro, con una percentuale del 2,4% a livello nazionale. Lo scorso anno il valore era lievitato a 117 milioni, attestandosi tra le principali voci attive della bilancia commerciale nostrana. Un trend favorito anche da manifestazioni come il Vinitaly di Verona e dal dinamismo che contraddistingue i vignaioli nostrani, che sanno approfittare del traino dell'Italian Sounding a livello planetario. L'edizione della Kermesse veronese del vino quest'anno per il Friuli Venezia Giulia era decisamente puntata sull'export, con delegazioni commerciali di buyers che si alternavano a ritmo incessante nello stand e nella sala degustazioni guidata dall'ERSA. Le suggestioni della Via della Seta cinese, che a detta di molti operatori del settore potrebbe venire ribattezzata la Via del Vino, nell'altro senso di marcia, con il porto di Trieste quale punto di partenza, hanno tenuto banco al Vinitaly. Attenzioni più che doverose, anche se gli addetti ai lavori raccomandano di non perdere d'occhio i mercati già consolidati e di non focalizzarsi ad Oriente solo sulla Cina. A Verona abbiamo sentito a tal proposito Giorgio Colutta, vignaiuolo, già presidente regionale di Confagricoltura e uno dei primi operatori del settore ad esplorare anche i mercati extraeuropei. Diciamo, la Cina è un mercato certamente interessante dai grandi numeri. È vero anche che è molto molto difficile, perché è molto frazionato, ci sono tantissimi importatori, c'è poca continuità nelle relazioni, quindi è un paese sicuramente da attenzionare, ma con diciamo non sarà la soluzione dei problemi, ecco, per quanto ci riguarda. E gli piace il rosso? Loro sono soprattutto bevitori di rossi, purtroppo bevitori appunto di molti vini francesi, diciamo che l'80% è vino rosso, quindi già qui abbiamo capito un attimo che il lavoro è lungo. L'Asia non è però solo Cina. Ma indubbiamente ci sono altre aree dell'Asia, come possono essere il Vietnam, la Thailandia, il Laos, la Malesia, che sono altre zone interessanti, dove peraltro il bianco si sposa bene, il bianco friulano si sposa bene anche con la cucina locale, che è fatta di riso, di verdure, di pesce. Quindi diciamo non c'è solo il successo dei ristoranti italiani, che sono i nostri ambasciatori in giro nel mondo, ma anche della cucina locale, che si abbina appunto bene ai nostri bianchi, e quindi, essendo zone un po' più pionieristiche, forse anche un po' più facili da aggredire. Cambiamo continente, andiamo nelle Americhe. Abbiamo un Midwest, una parte centrale, che è ancora, diciamo, terreno da esplorare. Abbiamo tanti stati, come può essere il Kentucky, l'Arizona, il Texas, dove non è ancora massiccia la presenza dei nostri bianchi friulani, e quindi credo che possano essere delle aree, degli stati da frequentare. Interessante poi l'Asia minore. Sono zone sicuramente anche queste che possono essere attente al nostro vino. Si stanno aprendo un po' al mondo del vino, che non era parte, diciamo, del loro DNA. E qui quali sono i paesi di riferimento? Beh, diciamo che paesi come Kazakistan, Azerbaigian possono essere anche queste delle aree di interesse. Sono zone che hanno una tradizione comunque vitivinicola, quindi il vino comunque è conosciuto come prodotto, come alimento, e quindi anche qui si stanno aprendo. Cristina Micheloni ritorna sul tema della Sauvage, un tema a lei molto caro, e c'è da dire che in questi anni in Friuli Venezia Giulia la coltura è aumentata. Mi piace pensare di avere almeno una particina del merito di vedere questa fioritura, ed è il momento proprio per dirlo, di Sauvage anche nella nostra regione. Sta di fatto che il numero di agricoltori, il numero di ettari in Friuli, ma in tutto Nord Italia, in cui sono stati seminati nell'autunno scorso dei Sauvage, è aumentato in maniera molto molto importante. Quello che ancora manca è una visione strategica, ovvero io devo mettere giù un sovescio, seminare un sovescio sapendo che cosa ci voglio fare dopo, che coltura voglio seminare a seguire e soprattutto che effetto voglio ottenere dal sovescio. In estrema sintesi, se io voglio aumentare la dotazione di azoto per la coltura successiva, dovrò andarlo a terminare. Terminare vuol dire mettere fine alla fase vegetativa del sovescio e quindi preparare il campo alla semina di quello che viene dopo. Se io voglio appunto enfatizzare la parte azoto, dovrò andare a terminare il sovescio all'inizio della fioritura, soprattutto le leguminose. Questo però ha un effetto collaterale che non ci piace, che è quello di ridurre il pascolo per api e tutti gli insetti impollinatori, ma gli insetti utili. Io direi che possiamo anche sopportare di perdere qualche unità di azoto, ma lasciare che gli insetti utili abbiano di che mangiare. Se invece vogliamo enfatizzare l'effetto sostanza organica, produzione di sostanza organica, dobbiamo lasciare che la massa vegetale vada un po' più a maturazione, che ci sia più cellulosa, e ritarderemo quindi verso la fine della fioritura o anche un momento dopo la terminazione dei sovesci. Se voglio invece enfatizzare l'effetto copertura antimalerba, quindi magari ho dei terreni particolarmente sporchi, ho due opzioni. O tengo il sovescio più vicino possibile al momento della semina e della coltura, in modo da non lasciare spazio alle malerbe per svilupparsi, oppure la posso trinciare per tempo e fare anche una falsa semina. A me un po' la scelta. Sta di fatto che devo decidere anche come terminare il sovescio. La cosa più normale, più comune, è trinciarlo e lasciarlo perdere acqua per qualche giorno sul terreno, in modo da ridurne la massa, e poi andarlo a interrare molto superficialmente. Quello che non devo fare è fare una bella aratura profonda e portare la massa vegetale fresca in profondità. Quello è un autogol, quindi quello non va fatto. Opzione B è quello di rullarlo con un rullo detto allettatore, perché riesce a sfibrare la massa, e usarla poi come pacciamatura verde. Stefano Montello oggi ci parla delle zucchine e della loro immagine, per certi versi contraddittoria. Parlare di zucchine è parlare del nulla. Ma partendo dal presupposto che l'orto è metafora della vita e della conoscenza, non possiamo leggere il nulla come paradigma di inutilità, ma nella sua specifica accezione filosofica di nulla. Nihil in latin. Perché parlare di zucchine è parlare del nulla? Dunque, lo zucchino è una pianta dandy, dal carattere fatuo. Intanto perché ha foglie verdi con dei disegni che in controluce rivelano dei riflessi argentati che sanno tanto di medaglie al merito millantate. Il fusto e la pagina inferiore delle foglie sono coperti da piccole spine che producono dei graffi alla pelle, ma senza farla sanguinare, e dunque è pianta che se ne sta sulla difensiva pur senza avere il coraggio di offendere. I grandi fiori gialli che al mattino si aprono al sole e alla rugiada ricordano certe rose carnose e sensuali. Nelle mattine estive, poi, lo zucchino rivolge le sue foglie verso il cielo a raccogliere la rugiada, che poi fa scorrere attraverso il fusto sino a portarsela alle radici. Visti così, in un'alba lattiginosa, queste piante ricordano un'assemblea di frati francescani che cantano in coro la preghiera del mattutino. Ma la pianta dello zucchino sa essere anche di una bellezza monumentale. È pianta tropicale e nel linguaggio degli ortolani viene indicata come pianta indeterminata, che cioè, teoricamente, e se messa nelle condizioni giuste, non smette di crescere e di produrre. Nelle stagioni ottimali, con calore adeguato ed umidità relativa piuttosto alta, queste piante raggiungono i 2 metri ed anche più di altezza o di lunghezza e hanno un ciclo colturale di produzione molto lungo. Possono produrre anche sino ai primi freddi del tardo autunno. Ma pur essendo fisicamente maestosa, lo zucchino nasconde un segreto sottoterra che ne inficia lo splendore e ne indebolisce il carattere, cioè non ha radici. E tutta questa esplosione di superba indolenza può essere sradicata con una semplice forzatura della mano, con una pressione senza troppo sforzo, con una piccola dose di violenza. Stupisce la fine poco gloriosa della pianta quando, una volta sradicata, In una settimana lasciata al sole e agli agenti atmosferici, si sbriciola, diventa polvere e neppure è più adatta a far concime. In una parola, diventa nulla. 2 metri e passa di pianta, un peso di 20 kg, dei frutti che a completa maturazione pesano 4-5 kg ciascuno e poi non resta nulla. Piace per le frittate, ma soprattutto per il suo apporto determinante nella fabbricazione della birra. Il lupolo, però, è pianta di tante altre virtù, come ci dice oggi Antonino Danelutto. Lupulus, piccolo lupo. Così Plinio il Vecchio, vissuto nel primo secolo d.C., definì il lupolo a causa della sua aggressiva tendenza ad arrampicarsi sugli arbusti e a diffondersi, occupando man mano tutti gli spazi attorno a sé. Il lupolo, nome scientifico Humulus lupulus, in friulano urticion, cresce comunemente ai margini di boschi umidi, nelle siepi, nei fossi, in luoghi incolti. È pianta lianosa perenne nota fin dai tempi antichi. Ha fusto legnoso coperto di peli rigidi e raggiunge l'altezza di alcuni metri. Le foglie sono opposte, hanno 3-5 lobi e margine seghettato, sono ruvide di sopra e resinose di sotto. I fiori sono piccoli, giallo-verdognoli. Quelli maschili sono riuniti in un'infiorescenza a pannocchia, mentre quelli femminili sono a due all'ascella di brattee che assumono la caratteristica forma di cono. Da notare che, essendo il lupolo una specie di dioica, i fiori maschili si formano su individui diversi da quelli con i fiori femminili. I teneri germogli primaverili sono ricercati per risotti, minestre, frittate e ripieni per torte salate. Lessati e conditi con olio e limone sono ottimi e dal sapore gradevolmente amarognolo. In fitoterapia la droga è costituita dai coni delle infiorescenze femminili, raccolti in agosto-settembre ed essiccati. Contengono numerose sostanze dotate di attività farmacologica, fra cui olio essenziale, tannini e soprattutto principi amari. Questi ultimi sono presenti nella resina giallastra secreta dalle ghiandolette gialle che vengono liberate con la battitura dei coni e che formano la cosiddetta farina di lupolo o lupolina. Il lupolo stimola l'appetito e facilita la digestione, favorisce il sonno, è discreto calmante ed antispastico. Nell'uso popolare un tempo si consigliava ai sofferenti di insonnia di usare un cuscino imbottito di coni. Ma il principale e più importante uso che si fa del lupolo riguarda la produzione della birra, alla quale conferisce il caratteristico sapore amarognolo e ne favorisce la conservazione grazie alle sue proprietà antibatteriche. La quasi totalità del lupolo importato in Italia proviene dalla Germania, dove, nelle estese coltivazioni di piante femminili che producono i coni, si conta un numero assai ridotto di piante maschili che hanno il solo compito di fornire il polline fecondatore. Individui maschili e femminili di lupolo sono presenti anche nell'orto botanico udinese di Gori e Beivars, appena riaperto a tutti e in particolare alle scolaresche, fino a metà settembre. Ingresso libero. Con Claudia Fontanini oggi parliamo per la rubrica Qualità e Sicurezza sulle nostre tavole degli esempi di errori più comuni che si possono trovare e fare sulle etichette. Capita di vedere non rispettati alcuni requisiti di base in etichette predisposte senza un'adeguata conoscenza della normativa. Si trovano, per esempio, prodotti descritti solo con un nome di fantasia. È scorretto perché non si può emettere la denominazione come richiesta e definita dal regolamento. Nello specifico è previsto che sia indicata la denominazione legale, per esempio formaggio. In mancanza di una definizione di legge va utilizzata quella usuale, per esempio gelato. In mancanza anche di questa, il prodotto va etichettato con una denominazione che lo descriva. Tra i requisiti richiesti dalla legge c'è l'obbligo di rendere facilmente individuabile la presenza di componenti che possono provocare allergie. Gli allergeni vanno quindi messi in evidenza con l'utilizzo di un carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti, per esempio grassetto maiuscolo. A volte si trovano erroneamente evidenziati ingredienti che in realtà non sono allergeni o peggio viceversa. Per una corretta etichettatura bisogna fare riferimento all'elenco riportato in allegato al regolamento citato con i successivi aggiornamenti. Vi troviamo tra gli altri il latte, le uova, il sedano, le arachidi e la senape. Ricordo che fornire l'indicazione relativa agli allergeni è obbligatorio anche per i prodotti non confezionati. Importante novità è, da dicembre 2016, l'obbligo in etichetta della dichiarazione nutrizionale. Anche relativamente a questo requisito capita di trovare errori formali. La dichiarazione nutrizionale va espressa su 100 grammi o 100 ml di prodotto e presentata come tabella, se lo spazio lo permette, altrimenti in forma lineare. Si devono utilizzare i termini esatti per indicare i nutrienti e rispettare l'ordine previsto dal regolamento, quindi prima energia in kilojoule e kilocalorie, poi grassi, di cui acidi grassi saturi, poi carboidrati, di cui zuccheri, proteine, sale. Come si determinano i valori da dichiarare? Sono valori medi stabiliti sulla base di analisi di laboratorio specifiche o ricavate da banche dati scientificamente valide. La legge prevede limiti di tolleranza riguardo alle differenze tra i valori dichiarati e eventuali valori riscontrati in controlli ufficiali. In conclusione, la predisposizione di un'etichetta non può essere improvvisata, sia perché si può incorrere in sanzioni, sia perché, nel rispetto dello scopo del regolamento, l'etichetta deve assicurare un'informazione chiara e trasparente a tutela della salute dei consumatori. Dopo la fortunata puntata dedicata a palacinche e omelette, oggi Roberto Zottar ci propone un altro dolce casalingo della Venezia Giulia, realizzato più o meno con lo stesso impasto, il s'more. È un dolce di origine austriaca, preparato per merenda ma anche come piatto unico, spesso sostitutivo della cena. Il termine s'more è un adattamento dialettale dell'austriaco der Schmarren, con cui si intende una sorta di frittata sminuzzata dolce, fatta con uova, latte, zucchero, farina, una via di mezzo tra una crepe e un pancake spesso. Probabilmente il termine deriva dall'alto tedesco schmer, strutto, o da schmieren, spalmare. Oggi schmarren è usato anche in senso figurato per intendere sciocchezze o fesserie quando qualcuno sta dicendo qualcosa di poco sensato. La parola appare citata per la prima volta nel 1563 in un sermone nunziale del teologo Johannes Mathesius che parla di un grasso schmarren. Per molto tempo però fu un piatto per gente povera, cioè per contadini, pastori, malgari e infatti era anche chiamato Holzfäller schmarren, schmarren dei boscaioli. Le molte ricette contadine prevedono nell'impasto anche castagne o semolino o pezzetti di pane o mele o mirtilli. Bisogna aspettare fino all'Ottocento però perché la ricetta contadina venga adottata dalla cucina borghese viennese. In Austria tutte le preparazioni più ricche, cioè quelle che rispetto alla preparazione di base hanno qualcosa in più, vedono spesso abbinare al loro nome il termine Kaiser. In questo caso, aggiungendo uvetta sultanina, parliamo di Kaiserschmarren, dal tedesco Kaiser, cioè imperatore, e quindi letteralmente frittata dell'imperatore. Nella Venezia Giulia si preferisce però tramandare la leggenda che il termine Kaiser sia stato aggiunto perché è un dolce molto amato dall'imperatore austriaco Francesco Giuseppe, il cui ritratto fa ancora capolino in qualche osteria del Carso o del Collio. Per realizzarlo, preparate una pastella con 3 tuorli, 125 g di farina, un cucchiaio di zucchero, un pizzico di sale e un quarto di latte. Aggiungete 3 albumi a neve. Si può cuocere al forno, ma tradizionalmente si versa la pastella in una padella con burro fuso. Cospargete con mezzo etto di sultanina rinvenuta in rum e coprite con il coperchio. Girate questa frittatona e quando è cotta spezzettatela con 2 cucchiai e cospargete con un po' di zucchero per far leggermente caramellare i pezzettoni. Servite il Kaiserschmarrn caldo con zucchero a velo e accompagnato con confettura di mirtilli rossi o di lamponi o composta di mele o di prugne. Come su tutte le crepe dolci, il segreto di una grattata di buccia di limone alla fine dà molta freschezza. Buon appetito! Ed ora con Amos D'Antoni per l'andamento dei mercati agricoli. Andamento stabile venerdì scorso alle contrattazioni cerealicole e Camere di Commercio di Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 16,50 a 16,70 euro al quintale, IVA esclusa. Il frumento buono mercantile tra 19,80 a 20,10, l'orzo tra 19 e 19,50 e la soia tra 32,40 a 32,90. Rispetto ad un anno fa il prezzo del mais è diminuito di 50 centesimi e quello della soia di 4,90 euro al quintale. Nel comparto zootecnico si rilevano cenni di stabilità e i mercati dei bovini da macello quotano le vacche fine carriera di prima qualità a peso morto tra 2,30 e 2,80 euro al chilo, quelli di seconda tra 1,60 e 2,30. Quotazioni invece attive nel settore dei vitelli da ristallo, dove i blu belga maschi vengono pagati tra 5,70 e 6,30 euro al chilo IVA e compresa, i pezzati rossi tra 4,50 e 5,10, i frigioni tra 1,50 e 1,80, i bruni tra 1,40 e 1,70. Ancora spunti di ripresa nel settore suinicolo, dove i lattonzoli franco partenza di 30 kg sono pagati a 2,80 euro al chilo IVA esclusa e i grassi da macello a 1,15. Rivalutazione in salita nel comparto caseario, con il prezzo del montaggio fresco compreso tra 5,30 e 5,95 euro al chilo, quello di 4-6 mesi tra 6,70 e 7,20, con marchio di qualità tra 7,40 e 8 euro, lo stagionato di 12-15 mesi tra 7,70 e 8,10. Stabilità invece nel settore dei foraggi, fieno Mazengo di pianura e lebra medica vengono pagati in media tra 19,50 e 20,10 euro il quintale IVA esclusa, mentre la quotazione della paglia di cereali pressata oscilla tra 13 e 13,50, sempre IVA esclusa. E con il previsore dell'ARPA Osmer Marcellino Salvador diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante, più un breve contributo di climatologia locale. Metà mese di aprile se n'è andato e possiamo dire che ha riportato un certo ordine dal punto di vista meteorologico sulla nostra regione. Le piogge ci sono state, sui monti c'è un po' di neve in quota, le temperature sono ritornate su valori più normali ed il soleggiamento è stato decisamente ridotto, così come l'escursione termica in gran parte della regione, per la frequente presenza di nuvolosità, condizioni che vanno a beneficio delle riserve idriche, ad una cessazione del rischio incendi e ad una adeguata irrigazione naturale in tutta la pianura con colture in avvio vegetativo. Se è vero che la temperatura media è ritornata nella normalità, dobbiamo anche dire che le temperature minime sono state decisamente miti per la stagione, a causa della persistente copertura nuvolosa, tanto da essere tra le più alte degli ultimi decenni dopo il 2009 per questa prima parte di aprile. A Trieste il 1 aprile abbiamo avuto una temperatura minima di ben 15,8 gradi, che rappresenta un record per i primi 10 giorni del mese. Sottolineiamo che i periodi con giornate completamente serene, così frequenti fino a fine marzo, sono decisamente sparite con aprile, a vantaggio di un riequilibrio per l'agricoltura e più in generale per tutto l'ecosistema e l'ambiente. Passando alle previsioni, constatiamo che da domani il tempo avrà una svolta. Infatti, nella settimana entrante e in particolare da martedì, tenderà a prevalere una fase anticiclonica con tempo più stabile e aria più mite. Domani sarà ancora possibile qualche rovescio pomeridiano sui monti e forse sulla pedemontana. In seguito prevarrà il sole, quindi cielo in genere poco nuvoloso con qualche nube in più sui monti. Lo zero termico si porterà dai 1500 metri di oggi a oltre 2000 metri a metà settimana, per cui le temperature massime in pianura si porteranno a 20 gradi, mentre le minime potranno scendere fino a 5 gradi, dato il cielo sereno. Sulla costa minime sui 10 e massime sui 15-18 gradi, con il mare a 12 gradi. Anche nelle valli le temperature massime saliranno verso i 20 gradi. Da martedì e fino a venerdì non sono previste precipitazioni. In seguito la tendenza è ad un leggero aumento della temperatura. Sembrerebbe così scongiurato il rischio di gelate tardive, dato che tale probabilità tende ad essere statisticamente minima nell'ultima decade di aprile. Ad ogni modo vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti delle previsioni che quotidianamente l'Osmer ARPA elabora. Termina qui la puntata. Anche oggi vogliamo lasciarvi con un proverbio friulano. Non sta mai la di avrilla scerpi, se no tu bei saghe no vin, ovvero non andare mai a potare la vigna in aprile, altrimenti berrai acqua e non vino. Coordinamento tecnico di Daniela Posti, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino, Rita Micoli e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.